settimana nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 14 luglio, il sole in regione è sorto alle 5.30 e tramonterà alle 20.56. Domenica ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monella e Armando Mucchino. I titoli. 555 bottiglie di Re Fosco interrate nel vigneto dove era stata prodotta l'uva. Esperienza di affinamento e solidarietà a Ramuscello. Il corsivo di Licio Damiani di oggi ha il titolo L'issopo biblico e il criso selvaggio. Piccolo vademecum per produrre al meglio un buon compost casalingo, toccasana per orti e giardini. Per la rubrica del vino siamo arrivati alla pressatura delle vinacce fermentate. Nei boschi di Cave del Previl svetta l'abete bianco, più vecchio e maestoso della regione. Poco importa se gli americani si sono presi la paternità dei popcorn, da sempre sono presenti in Friuli sotto il nome di Sioris. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Vino Terre è il titolo di un'esperienza di affinamento, di un'esperienza legata al vino che porta proprio il nome con sé. Perché? Ce lo spiega Adolfo Rizzi, che è il direttore della cantina cooperativa di Ramuscello, che è partita con una iniziativa da tantissimi aspetti. Allora, cos'è Vino Terre? Vino Terre è un progetto che è partito il 22 aprile dello scorso anno, Giornata Mondiale della Terra, dove abbiamo interrato del vino già messo in bottiglia e lo abbiamo interrato nel suo vigneto di origine. Quindi con questo Vino Terre abbiamo voluto dare risalto al lavoro dei nostri vignaioli e quindi ad innalzare proprio il valore della terra. E il vino sottoterra che benefici ha? Innanzitutto diciamo che abbiamo messo un vino rosso, perché il vino rosso si presta molto bene agli affinamenti particolari. Il vino che è stato interrato in una zona di risorgive, è stato interrato a 2 metri di profondità, quindi abbiamo un buio totale nel momento dell'affinamento, abbiamo una tranquillità, quindi un silenzio assoluto e soprattutto abbiamo una temperatura costante, perché dobbiamo ricordare che quella zona, la zona di Ramuscello, è una zona ricca di risorgive delle acque del Tagliamento, quindi temperatura a 12 gradi costanti. E da qualche giorno queste bottiglie, ben 552, sono tornate alla luce. Le abbiamo estratte, le abbiamo riportate alla luce e abbiamo organizzato anche una prima degustazione, un'anteprima con alcuni esperti tra enologi e giornalisti al fine di valutarne la sua capacità di affinamento che ha avuto sottoterra. E dobbiamo dire che la permanenza in queste condizioni ideali ha creato un vino molto vellutato, tenendo conto che il Re Fosco è un vino carico anche di tannicità, con questo affinamento si è reso molto molto morbido. Adesso si stanno preparando le etichette, anche qui c'è qualcosa di particolare. Anche con le etichette abbiamo seguito la collaborazione che abbiamo con l'Istituto, con il Liceo Artistico Galvani di Cordenons, che ricordiamo lo scorso anno ha fatto il murales sul nostro depuratore con il più grande murale del maestro Francesco Tullio Altan, e quest'anno la terza E dell'Istituto, che sono 16 ragazzi, sul tema terra e vino, hanno sviluppato una loro opera, quindi abbiamo 16 opere diverse. Queste 16 opere verranno riprodotte sulle etichette e ogni etichetta avrà un microchip, quindi anche questa è una novità assoluta, perché il microchip la porterà su un sito che è l'NFT, che è un sito virtuale, dove chi acquisterà la bottiglia avrà anche la possibilità di tenere l'opera o valutarla o anche metterla in vendita. E poi c'è l'aspetto della solidarietà, che forse è quello principale di questa iniziativa. Sì, l'aspetto della solidarietà è stato il motore trainante di tutto il progetto. Noi da anni abbiamo un collegamento con la comunità di Sant'Egidio di Roma, che è una comunità che, come ben si sa, è dedita sia all'assistenza sia alle opere caritatevoli, e abbiamo concordato che tolte le spese delle bottiglie, tutta la vendita e quindi tutto il ricavato della vendita andrà alla comunità di Sant'Egidio per sostenere i corridoi umanitari. Oggi il grosso problema che abbiamo in agricoltura è la manodopera e quindi noi abbiamo bisogno di questa manodopera che magari arriva anche da paesi stranieri. L'importante è che sia che entri in modo regolare, come sta facendo in questo caso la comunità di Sant'Egidio, e quindi diamo valore e dignità a questi che arrivano a darci una mano. La lettura dei corsivi di Licio Damiani raccolti nel volume Vita nei campi, storia, memorie e leggende della campagna, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi riproponiamo l'Isopo biblico e l'Elicriso selvaggio in onda il 13 luglio del 1997. Oggi ci soffermiamo su due erbe aromatiche che solo di recente sono comparse da noi sul mercato, anche se sono molto diffuse in tutta l'area mediterranea, l'Isopo e l'Elicriso. L'isopo evoca suggestioni bibliche. Purificami con isopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, canta un salmo di Davide. Presso gli antichi ebrei l'isopo veniva prescritto soprattutto per alcuni riti di purificazione dei lebbrosi, degli immondi e delle case per i sacrifici. In tutto l'Antico Testamento era una pianta importante. Lo conferma il libro dell'Esodo, in cui il Signore lo prescrive per la Pasqua. Procuratevi un capo di bestiame minuto per ogni famiglia e immolate la Pasqua. Prendete un fascio di isopo, lo intingerete nel sangue che sarà nel catino e spruzzerete l'architrave e gli stipidi con il sangue del catino. E nel racconto dei Vangeli l'isopo e il ramoscello, in cima al quale venne infissa la spugna imbevuta di aceto per alleviare la sete di Gesù morente sulla croce. Per cui, insieme alla spugna, compariva nel Medioevo nelle rappresentazioni mistiche della passione e del giudizio universale. Un tempo, all'inizio della primavera, durante le erogazioni, i sacerdoti benedivano con i rametti della pianta i campi. Le donne la raccoglievano e la portavano in casa, dividendola con le amiche, per allontanare il malocchio e ogni altra influenza negativa. L'isopo è una pianta perenne, cespugliosa, con foglie lanceolate di un aroma amaro. Ricorda qualcosa della menta e della ruta. Pannocchiette di fiori da maggio a settembre la ornano come cuspidi azzurro porpora. Pianta consigliata anche quale depurativo e per curare l'asma e le affezioni bronchiali, oggi è coltivata su scala industriale per la preparazione di medicinali e di profumi. Alcuni appassionati di erbe la consigliano anche nelle minestre, nei ragù, in insalata e se ne fa uso per i liquori. Ma attenzione a non esagerare perché, si dice, potrebbe provocare convulsioni. È di bell'effetto accostare al verde profondo dell'isopo e ai suoi fiori azzurri l'argento lunare dell'elicriso dalle cupolette di infiorescenze di un giallo raggiante. Il nome elicriso deriva infatti dalle parole greche sole e oro. Ha un profumo forte, irto, selvatico e pastorale. In certe isole della Grecia, a Cherso, a Lussino, sulla costa dalmata e nell'Italia centro-meridionale, l'aroma sparso nel vento è come il sentore dell'anima diffusa di quelle terre. L'elicriso, altro nome evocativo e come intriso di leggenda, ha virtù terapeutiche nelle affezioni respiratorie per le sue proprietà antibatteriche, mucolitiche e spasmolitiche. In antico gli venivano attribuiti poteri magici. L'importanza di avere sempre a disposizione un buon compost fatto in casa. Cristina Micheloni ci dà alcuni suggerimenti per superare alcune difficoltà, certo non insormontabili. Sento ancora vedere i comuni di compost o anche i bidoni del compost, che sarebbe il primo e anche facile passo verso quella circolarità dell'economia che ad alcuni pare innovazione, ma che in agricoltura è sempre stata la normalità. Il compost è infatti un toccasana per il suolo e può ben sostituire ogni fertilizzante nell'orto, nel frutteto e pure nei vasi di fiori e di aromi. Ma perché in così pochi fanno il compost nel giardino? Chiedendo e chiacchierando ne esce che in molti non lo vogliono fare perché puzza. Attenzione, è una fermentazione aerobica in cui funghi, batteri e attinomiceti trasformano ciò che trovano in humus e le popolazioni di microrganismi e la relativa abbondanza dipende da ciò che mettiamo nel cumulo. In estremissima sintesi, se rimanete su materiale vegetale come scarti della pulizia degli ortaggi, erba sfalciata, foglie, ramaglie più o meno smiozzate, non si forma nessuna puzza. Se iniziate ad aggiungerci avanzi di cibo di origine animale, invece qualche odore molesto può pure svilupparsi. Altra causa di formazione di cattivi odori può essere il fatto che la fermentazione non è più aerobica, perché nella massa non passa abbastanza aria, quindi basta rivoltare o smuovere un po' il tutto e iniziare a inserire nel cumulo qualcosa di grossolano, tipo ramaglie, proprio per facilitare la circolazione dell'aria. Altre chiacchiere riportano che non si fa il compost perché richiama i topi. Vero sempre se contiene scarti di origine animale, mentre gli scarti vegetali sono assai meno interessanti per ratti dintorni. Magari qualche topino di campagna ci può stare, ma non lo vedrei come un problema. Altro tema di disquisizione, meglio il cumulo o il bidone? Indubbiamente meglio il cumulo, che permette maggiore aerazione ed ha anche modo di poter rivoltare la massa o almeno smuoverla un po', per rendere più omogeneo il processo di fermentazione e evitare stalli. Ma si faccia un po' quello che si può, se lo spazio di esposizione è limitato e l'estetica dell'orto propende per il bidone, e bidone sia. Però controllate che all'interno circoli abbastanza aria. Un paio di piccoli accorgimenti e suggerimenti. Non sono necessari sarde batterici o altri, nell'aria, nell'acqua, nel suolo. Sulla matrice vegetale ci sono tutti i microrganismi che servono. Oltre all'aria, i microrganismi hanno bisogno anche di un po' di umidità, quindi in caso di prolungati periodi siccitosi, controllate che all'interno della massa ce ne sia e se troppo secco provvedete con una adacquata. Infine, i microrganismi lavorano al meglio, anche in termini di velocità, se c'è un equilibrio tra proteina e fibra, quindi se vedete che il processo va lento, aggiungete alla massa del compost, mescolando un po', dell'azoto sotto forma di pollina o altro pellettato organico. Ne basta una manciata. Per la rubrica del vino il professor Roberto Zironi si avvia verso la chiusura della filiera con la pressatura del pigiato. Dopo la svinatura, nel macerlatore restano le vinacce fermentate che devono essere estratte per ottenere dalla loro pressatura un vino denominato di pressa, che rappresenta mediamente il 15% della totalità del vino prodotto. Dall'operazione di pressatura delle vinacce si separano due vini di pressa, un vino di prima pressatura ottenuto direttamente dalle vinacce e uno di seconda, di qualità inferiore perché più ricco di sostanze con gusto amaro ed erbaceo, che si ottiene a pressione elevata dopo sgretolamento del pannello di vinacce. La qualità dei vini di pressa è quindi influenzata sia dalla qualità delle uve che dalle condizioni di riempimento della pressa e dalla conduzione del processo. L'estrazione delle vinacce dal maceratore e la loro pressatura devono essere effettuate rapidamente per ridurre le ossidazioni ed evitando la lacerazione e la triturazione dei tessuti, che provoca la formazione di fecce, rendono i vini di pressa torbidi, amari e talvolta poco colorati. Se la distanza è limitata, la pressa è alimentata da nastri trasportatori della vinaccia. Per le distanze maggiori si utilizzano pompe capaci di trasferire le vinacce attraverso delle tubazioni. In questo caso la qualità del vino di pressa è sempre minore per gli effetti negativi sulle vinacce delle sollecitazioni alle quali sono sottoposte nel trasporto. Le attrezzature utilizzate per la pressatura delle vinacce sono le stesse utilizzate per la vinificazione in bianco. Le presse verticali idrauliche sono le più antiche e recentemente sono state oggetto di una nuova ingegnerizzazione. Una gabbia palettizzabile si riempie facilmente davanti all'imboccatura della vasca ed è agevole il trasferimento delle vinacce alla pressa. Con queste attrezzature si può estrarre una quantità rilevante di vino di pressa di buona qualità. Le presse pneumatiche, quelle orizzontali a piatti, hanno un funzionamento automatizzato, eventualmente programmabile, e danno specialmente le prime dei buoni risultati qualitativi. Le presse continue hanno rese elevate, ma esercitano un'azione violenta sui tessuti delle vinacce e la qualità dei vini di pressa è sempre inferiore a quella ottenibile con le presse discontinue. Nei vini di pressa, tutti i componenti salvo l'alcol sono più concentrati. La differenza fondamentale con i vini di sgrondo è la ricchezza in estratti data dalle sostanze polifenoliche, dai polisaccaridi e dagli altri colloidi. La quantità di vino di pressa da miscelare col vino fiore è funzione del tipo di vino che si vuole ottenere. Ad esempio, l'aggiunta del vino di pressa è spesso necessaria nei vini da invecchiamento prodotti nelle zone temperate, che con l'apporto di una piccola percentuale di vino di pressa risulteranno più completi ed omogenei all'assaggio. Per la rubrica dei grandi alberi che ci cura l'ispettore della forestale Dario Di Gallo, oggi di scena un grande e vecchissimo abete bianco in quel di Cava del Predil. La foresta di Tarvisio offre spesso degli scorsi paesaggistici unici, dove la grandiosità delle cime delle Alpi Giulie si mescola alla solennità dei boschi ben gestiti e formati da una incomparabile varietà di specie forestali. Questo a maggior ragione si può assaporare nel comprensorio minerario di Cave del Predil, dove si respira ancora l'atmosfera della città industriale e del duro lavoro delle miniere. Dalle prime case di cave, provenendo da Tarvisio, si stacca sulla sinistra il sentiero segnalato che, attraverso i ruderi di una malga, porta alla bellissima e panoramica forcella fossilifera della Portella, percorrendo un canalone dal nome musicale, il canale Risonante. Si sale lungo un ombroso vallone dove fra i frequenti salti d'acqua si possono ammirare grandi esemplari di faggi, che nei mesi autunnali riempiono di colori riflessi tutto il bosco. Dopo un'ora di cammino ci si trova su un pianoro boscoso popolato da abete rosso, abete bianco, larice e faggio. E qui, ad una altitudine di 1270 metri, si trova, sulle pendici settentrionali del Monte Guarda, uno degli esemplari di abete bianco più grandi della regione. La sua chioma, sempre verde, alta e svettante e dalla bella tonalità verde brillante, si può notare anche dalle montagne circostanti, rappresentando così un sicuro riferimento per i visitatori. La sua circonferenza ha ormai raggiunto i 5 metri e la sua altezza supera i 30. L'età è vicina ormai ai 2 secoli. Il suo aspetto è severo e grandioso e incute soggezione e rispetto. I rami, che iniziano molto in alto sul tronco, salgono regolari e appressati. Inconfondibili sono gli aghi, intensamente profumati di resina e limone. Il luogo, ombroso, è molto adatto ad una lunga e piacevole sosta. Anche nelle campagne del Friuli ricche di mais c'erano i popcorn, ben prima della loro consacrazione mondiale, arrivata dagli Stati Uniti. Qui avevano il nome di Sioris. I popcorn possono essere uno spezzafame gustoso e divertente, basta sentirne l'aroma nell'aria per sentirsi magari al buio in un cinema con la persona che ci piace accanto o un amico con cui ridere e litigare per la loro scatola. Nella loro semplicità i popcorn custodiscono curiosità e una storia, ma la loro origine è friulana. Rileggendo il capitolo dei piatti caratteristici friulani della contessa Giuseppina Perusini, Mangiar e ber friulano, mi sono posto la domanda. Il libro, Bibbia della cucina friulana, include tra i piatti di tradizione l'is sioris, pietanza che è così descritta. Si dà il nome di sioris ai chicchi di gran turco messi in padella e tenuti sul fuoco vivo fino a quando scoppiano assumendo l'aspetto di un ciuffo spumoso. A Pofabbro questi chicchi si chiamavano bafaros, si mangiavano così oppure macinati e bagnati con vino. Quindi i popcorn sono anche friulani, ma certamente non possiamo vantarne l'invenzione. Il mais è infatti originario dell'America centrale e furono quindi gli abitanti del nuovo continente, gli indiani, gli inca, i maya, a farlo, come testimoniato da rinvenimenti archeologici. Lontano dall'essere bianchi, lucidi e apparentemente perfetti come i nostri, risultato di centinaia di anni di attenta selezione delle piante, i primi popcorn probabilmente assomigliavano al mais riarso, più croccante. Nascono dal comune mais nella varietà Everta, i cui chicchi riscaldati esplodono per l'espansione dell'umidità interna. Per l'Oxford English Dictionary, il nome risale al 1838, abbreviazione dell'inglese popped corn, cioè mais scoppiato, ma il loro successo si deve certamente alla più recente invenzione americana delle macchinette per la loro cottura per strada. Al microonde o in una padella calda con coperchio, con poco burro, mettiamo a scoppiare i chicchi di mais. Cospargiamo poi gli sioris con sale o zucchero, non dimenticando le golose varianti con caramello, miele o burro fuso. Altrimenti facciamo la pestadice, come la faceva la nonna di Gianni Cosetti, che cuoceva per un quarto d'ora mescolando chicchi di gran turco e poi, bollenti, li pestava in un mortaio con zucchero per ottenere un rustico passatempo dal gusto antico. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Contrattazioni sospese venerdì scorso alla Camera di Commercio di Pordenone Udine per il settore dei cereali, in quanto la commissione non si è riunita per la chiusura della sede camerale determinata dai santi patroni Ermacola e Fortunato, movimento invece nel comparto dei bovini del macello, dove le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3,35 e 3,95 euro il chilo, IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,75 e 3,35. Prezzi stabili nel settore dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi che vengono quotati tra 7,20 e 7,80 euro il chilo, IVA compresa, i pezzati rossi fra 5,40 e 6 euro, i frisoni fra 2,40 e 2,90, i bruni alpini tra 1,70 e 2 euro. Il mercato dei suini ha confermato la tendenza a ribasso, con i lattondoli di 30 kg quotati franco partenza dall'azienda a 4,36 euro il chilo IVA esclusa, i grassi da macello si quotano a 1,85. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone Udine recentemente ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 50 e 52 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Nell'ambito dei foraggi, per scarsa richiesta di prodotti, i prezzi sono in calo e l'erba medica di prima qualità viene quotata tra 9,50 e 10 euro il quintale IVA esclusa, il fieno mazzengo di pianura si paga tra 6 e 7,50 e la paglia di cereali pressata si quota fra 6,50 e 8 euro il quintale. Dal territorio di Tolmezzo rileviamo i prezzi della legna da ardere interi, che vengono quotati oggi da 8,50 a 9 euro al quintale. Rispetto al mese precedente il prezzo è diminuito di 80 centesimi il quintale. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Nella settimana che si è appena conclusa abbiamo registrato la prima ondata di calore significativa per intensità e durata di quest'estate. A partire da lunedì scorso le temperature sono salite. Nelle ore più calde i valori massimi in pianura hanno toccato mercoledì e giovedì i 35 gradi, con umidità del 35-40%, mentre sulla costa le massime sono arrivate intorno ai 33 gradi, con un tasso di umidità però più elevato, fra il 60 e il 70%. La temperatura del mare continua a essere molto elevata, con valori medi che in questa prima decade di luglio sono stati di 3-4 gradi superiori alla norma, e in questi ultimi giorni si è oltrepassato anche il record assoluto, con 29,1 gradi di media giornaliera per il periodo. Queste condizioni, con il mare molto caldo, implicano cambiamenti nei meccanismi di scambio termico fra terra e mare, con cambiamenti anche nel regime delle brezze, e di conseguenza vicino alla costa, anche nelle ore notturne, l'atmosfera continua a rimanere calda, ma gli effetti si osservano anche su buona parte della pianura friulana. Dopo l'incremento di instabilità di venerdì, che ha causato temporali anche forti con piogge intense e colpi di vento su gran parte dell'alta pianura della zona montana, a partire da oggi avremo condizioni più stabili. L'anticiclone di origine africana rimarrà ben consolidato sul Mediterraneo, favorendo sulla regione una persistenza di correnti sud-occidentali in quota, che però dovrebbero rimanere abbastanza secche, almeno fino a metà della prossima settimana. Ci si aspetta una settimana decisamente soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso, e soltanto sui settori montani più interni sarà possibile, nei pomeriggi, qualche rovescio o qualche isolato temporale. Le temperature rimarranno elevate, con valori massimi a inizio settimana di 33-34 gradi in pianura. Mercoledì probabilmente si toccheranno anche i 36-37 gradi, con un tasso di umidità che comunque dovrebbe rimanere un po' più basso rispetto alla settimana precedente. Al momento non si intravedono cambiamenti significativi del tempo e anche osservando le statistiche climatiche, essendo prossimi al cuore dell'estate, in questo periodo di solito il tempo rimane abbastanza stabile. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. A San Bonaventura si finisce di bati in planura, ovvero per il giorno di San Bonaventura, il 15 luglio, termina la mietitura in pianura. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monella, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanali per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.